24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Non c'è dubbio, e vorrei sottolinearlo, che l'uscita dalla situazione attuale è inevitabile. Quanto tempo ci vorrà? Nel peggiore dei casi, circa 2 anni. Dopo questo momento difficile, la crescita è inevitabile, anche perché la situazione economica sta cambiando. Con una crescita economica globale saranno necessarie maggiori risorse energetiche. A volte penso che l'orso dovrebbe starsene tranquillo, a mangiare miele e frutta. Così verrebbe lasciato in pace. Ma non è così. Cercheranno sempre di incatenarlo e una volta incatenato gli strapperanno i denti e le unghie. Nonostante il muro di Berlino sia crollato, si costruiscono nuovi muri. L'espansione della NATO non è forse un muro? Un muro virtuale? I nostri partner si credono un impero, ci vogliono vassalli. Servirebbe invece un solo spazio umanitario di libertà e di commercio. Vladimir Putin nel suo discorso di ieri. Ecco, Zevderov Nieti, corrispondente dell'agenzia nazionale russa New Day News. Putin, tra le altre cose, ha detto ieri di avere il sostegno dell'anima e del cuore dei cittadini russi. È vero? È verissimo. L'ultimo sondaggio a caldo della sua conferenza stampa dice che c'è stato all'impennato del suo sostegno. Sia al momento della caduta dell'Europa, il suo indice di popolarità è sceso fino al 58%, adesso il sondaggio del centro, uno dei più stimati in sì, Russia, quanto dice? Di 80%, 81%. Quindi il suo discorso ha convinto la popolazione, sì. Difatti è così, quindi la gente, anche se deve stringere la cinghia, ritiene comunque che sia la politica giusta, quella del presidente russo, sì. Esattamente, e quindi vuole unirsi attorno a lui, praticamente il sostegno è solidale e monolitico. Assoluto. Senta, i giornali raccontano però di una corsa a ritirare e spendere risparmi prima che il rublo perda ancora valore, è così? Sì, però penso che dopo la conferenza stampa di Vladimir Putin la situazione si stabilizzi. Infatti già durante la conferenza il rublo cominciava a guadagnare il terreno, non tanto comunque sia, si è stabilizzato adesso a quanto pare alla soglia di 75-76 rubli nei confronti dell'euro, quindi ha recuperato comunque quasi 10 rubli. Senta, ma Putin ha accusato la NATO di aver costruito un nuovo muro, è un sentimento condiviso in Russia? Io dico purtroppo sì, purtroppo è così, perché la popolazione pensa di trovarsi un'altra volta nelle trincee della guerra fredda, di essere accerchiata dai nemici, e quindi penso che il sentimento molto diffuso è soprattutto questo, è maggiormente, è, anziché anti-europeo, è piuttosto anti-americano, anti-USA. Cioè... È molto forte quindi il sentimento anti-americano oggi nel paese, sì, in Russia? Sì, sta proprio al picco. A differenza dell'inizio degli anni 90, del riavvicinamento di Yeltsin all'Occidente, agli americani, adesso è la deriva contraria. I russi sono molto diffidenti nei confronti degli americani soprattutto. Ma lei pensa che questo avrà anche dei riflessi nei rapporti fra la Russia e l'Europa dopo l'embargo? Inevitabilmente, e penso soprattutto che avrà un effetto molto negativo l'inasprimento delle sanzioni riguardanti la Crimea di oggi, la notizia che è circolata sulla stampa russa, perché soprattutto saranno molto penalizzati i cittadini semplici che hanno optato per la cittadinanza russa, che non potranno avere più i visti Schengen, praticamente si tratterebbe di 2 milioni della popolazione. Faccio ricordare che tra i cittadini ucraini e quelli che erano residenti in Crimea al momento di unificazione o annessione, come si vuol dire, alla Russia, praticamente è solo 1% della popolazione ha conservato la cittadinanza ucraina, quindi certo. Praticamente l'intera penisola adesso è penalizzata, ma le faccio presente che ci sono state molte badanti donne che erano residenti in Ucraina, che erano russofone, avevano la cittadinanza ucraina al momento dello sfacelo dell'URSS e adesso hanno optato per la cittadinanza russa. Senta, ma lei prevede una recrudescenza, un rischio, diciamo così, di guerra fredda? Sì, inasprimento ci sarà sicuramente. Io penso che ci sarà praticamente braccio di ferro molto forte tra la Russia e i paesi occidentali, ma non tanto contro l'Unione Europea o dei singoli paesi come l'Italia, ma soprattutto contro gli USA e anche contro la NATO. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Professor Sergio Romano, ex ambasciatore, editorialista del Corriere della Sera. 60 anni di embargo fallimentare come quello dell'America verso Cuba, cioè l'uso di uno strumento che si è rivelato inutile, però gli Stati Uniti lo impongono adesso alla Russia. Cioè, dalla storia non si impara mai nulla? Qualche volta purtroppo la storia insegna soltanto a commettere gli stessi errori che erano stati commessi, nella convinzione che la situazione sia diversa. Ci illudiamo che questa volta le sanzioni possono effettivamente dare buoni risultati. No, ha ragione lei, è stato un errore, le sanzioni nei confronti della Russia sono sbagliate ed è straordinario e paradossale che soltanto oggi Obama abbia potuto prendere atto pubblicamente di questo fallimento. Esatto. E ristabilire i rapporti. Ecco, ma l'Europa deve dissociarsi dagli Stati Uniti proprio per le cose che lei sta dicendo, professore, nel continuare l'embargo alla Russia? Dunque, se l'Europa si dissocia pubblicamente dagli Stati Uniti in questo momento, la decisione appare naturalmente un gesto di ostilità. Non dimentichi che cosa è accaduto quando Francia e Germania decisero di non partecipare, anzi di criticare l'operazione del presidente Bush contro l'Iraq nel 2003. Addirittura vi furono negli Stati Uniti delle campagne di stampa e di opinione, cambiarono persino il nome delle patate fritte alla francese e le chiamarono patate libertà, perché tale era l'ostilità, quasi l'odio, si direbbe, nei confronti sì, della Francia. Però, professor Romano, gli americani come possono pensare di escludere la Russia dallo scacchiere geopolitico di oggi, soprattutto che i danni prevalenti sono per l'Europa? Sì, io credo che occorra anzitutto cercare di spiegare perché gli americani sì, si siano infilati in questo vicolo chiuso. Credo che si sia diffusa negli Stati Uniti la profonda convinzione che la fine della guerra fredda restituiva agli Stati Uniti quel ruolo di egemonia morale che è in qualche modo innato, inserito nella tradizione americana, il ruolo per così dire wilsoniano dal presidente Wilson della Grande Guerra. Erano stati realisti nel corso della guerra fredda, alla fine della guerra fredda sono ripiombati in questa sorta di ossessione etico-politica che fa di loro il modello, l'esempio. Però è un'ossessione etico-politica molto, molto logorata. Sì, è molto logorata, ma lo sarà definitivamente quando se ne accorgeranno. Senta, il Papa parla di una terza guerra mondiale che si sta svolgendo a pezzi, diciamo così. Questo embargo è un pezzo di questa guerra? Ma quella era una metafora e a mio avviso persino piuttosto discutibile. Voglio dire, il fatto che il mondo sia effettivamente molto più disordinato di quanto non fosse negli anni della guerra fredda è un fatto e ne dobbiamo prendere atto e lo dobbiamo constatare, ma di lì a definirla una guerra mondiale francamente non mi sembra la migliore delle affermazioni possibili da parte di un pontefice. Senta, la strategia di Putin che fa leva sul patriottismo russo contro l'aggressione occidentale, secondo lei è efficace? Credo che sia efficace. Effettivamente la Russia in questo momento ha bisogno di fierezza e di orgoglio, dopo gli anni della disfatta, per così dire, perché fu percepita come tale. Certo. Putin ha restituito a loro un sentimento di orgoglio e di fierezza. Quindi nonostante la crisi, e la crisi indubbiamente morde moltissimo, non è neppure escluso paradossalmente che proprio facendo per così dire il viso dell'arme nei confronti degli Stati Uniti, Putin conquisti per sé un consenso che in questo momento potrebbe anche teoricamente mancargli. Quindi attenzione, se noi usiamo l'arma delle sanzioni o addirittura possono unire invece che dividere, insomma, ecco, perché poi il popolo russo è anche un popolo abituato a soffrire, quindi non è che non è una cosa ignota come dinamica di resistenza, no, mi pare? È un popolo che ha l'orgoglio della sua storia e del suo passato e ha coscienza di sé, coscienza della propria unità nel tempo. Ecco, professor Romano, ancora una cosa. Putin dice che può uscire in 2 anni dalla crisi. Lei pensa che sia un tempo ragionevole? Ma c'è un aspetto della cosa che mi è sembrato piuttosto curioso. Noi sappiamo che dopo un periodo relativamente breve Putin ha stretto un patto con gli oligarchi, ha dato loro la capacità e la possibilità di arricchirsi, ma ha preteso da loro obbedienza e disciplina. E in questo momento sta passando all'incasso, per così dire, sta chiedendo agli oligarchi di comprare rubli, perché ritiene, forse certo, anche giustamente, che la possibilità di farlo l'abbiano e che in questo momento la loro ricchezza debba essere usata per il riscatto del disastro economico in cui rischiano di precipitare. Ed è una strategia vincente, secondo lei? Lo vedremo. Lo vedremo, ma tutto sommato sarei persino disposto a scommetterci qualche cosa, non molto, sulla possibilità che ci riesca. Bene, Mario, discorso forte quello di Putin, eh? Sì, molto interessante, patriottico, me l'aspettavo, ovviamente un leader politico fa leva su questi sentimenti quando... Vabbè, l'analisi di Romano mi è sembrata molto puntuale, sì. La condivido tutta, aggiungo Sergio che... Sergio da Milano dice, sì, vogliamo Romano Presidente della Repubblica, è un altro candidato alle nostre... No, secondo me è correttissimo tutto lo scenario. Aggiungo una cosa... Come faranno gli Stati Uniti a stabilizzare tutti i punti di grande caos che hanno destabilizzato loro senza l'aiuto della Russia? Sarà un gran problema. Noi parliamo di Cuba, ma cosa si fa in Libia che è diventata la Woodstock del terrorismo? Cosa si fa con l'Egitto che non sappiamo che fine farà? Cosa si fa in Siria? Cosa si fa in Iraq? Insomma, volete che continui? No, non c'è bisogno. Sono tantissimi punti di crisi che hanno... soluzione molto difficile. Pietrangelo, tu che dici del discorso di Putin? Volevo aggiungere un argomento. C'è un elemento di destabilizzazione che mi incuriosisce molto, è quello della Turchia. La Turchia non è solo Erdogan, la Turchia è Davutoglu. Davutoglu, che è il premier, è quello che più di ogni altro ha lavorato al progetto eurasiatico, dove la Russia è il partner principale. La Turchia si trova adesso in una situazione di totale confusione. Credo che sia derivata dalla strategia americana, che è collegata appunto alla Woodstock del terrore, qual è la Libia, esatto, e tutte le altre situazioni del Maghreb. E questo è il vero elemento di difficoltà della Russia oggi, perché il progetto eurasiatico ha perduto terreno proprio perché è venuto a mancare l'elemento turco, che avrebbe determinato anche la scelta di una valuta comune che contenesse tutto il continente eurasiatico. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, Papa Francesco è stato ringraziato pubblicamente i giorni scorsi da Obama e da Castro per il ruolo che ha avuto nella fine dell'embargo a Cuba. Ma nell'ottobre del 62, dopo la scoperta dell'installazione dei missili a Cuba, ci sono stati dei giorni drammatici che hanno portato il mondo sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. Sono stati giorni in cui si temeva che i russi avrebbero forzato l'embargo navale americano costruito intorno a Cuba per impedire l'arrivo delle navi russe. Ecco, anche in quei giorni un papa, Papa Giovanni XXIII, ebbe un ruolo importante attraverso il presidente del Consiglio di allora, Amintore Fanfani. L'allora direttore generale della RAI, Ettore Bernabei, amico e collaboratore di Fanfani, era in quei giorni negli Stati Uniti. Questa è la sua testimonianza esclusiva su quei giorni drammatici e sul ruolo del Papa e dell'Italia. Io in quei giorni mi trovai casualmente negli Stati Uniti al Dipartimento di Stato, fummo ammessi in una sala evidentemente di visioni cinematografiche. Venne un diplomatico e ci disse: queste immagini che vedrete sono state riprese da satelliti spia, insomma, comunque, e da aerei spia. Cominciò la proiezione del film, che faceva vedere appunto come da delle grandi casse uscivano dei missili che poi venivano montati in un paesaggio che si vedeva da alcuni riferimenti era l'isola di Cuba. Kennedy era furioso, furibondo, soprattutto perché i russi gli avevano mentito. Dopo il discorso di Kennedy, Papa Giovanni XXIII fece un appello a tutti i capi di Stato. La pace universale

che gli dava vertigine, e lui, Andrea Sperelli, con Giorgio Conte, cominciò a cantare «Stringimi forte, abbracciami, prima che passi il tempo». Stringimi forte, abbracciami, stringimi ancora tu. Grande Giorgio Conte, eh? Sì, voglio quello che prende buttafuoco la mattina. Va bene, d'accordo. La metropolitana. La metropolitana, a bolle! Vai. Ok, questo è un bellissimo pezzo di Pat Metheny, Facing West, da un album che si chiama Secret Story. Un po' di segreto c'è in effetti in quello che sto per raccontarvi. Partiamo dai Lux Files, cioè dall'ombrello fiscale dato dal Lussemburgo a svariate multinazionali. Certo. Bene, stavano opponendosi con il segreto, poi hanno visto che la cosa poteva essere, diciamo, leggermente scomoda, e alla fine, sorpresa delle sorprese, il Lussemburgo fornirà una lista di qualche centinaio di aziende e individui che hanno avuto questo ombrello fiscale nel Granducato. Tutto fatto nell'era Juncker, e questo è un fatto sarà difficile che la scampi, no? Secondo me no, non la scampa. Non è finita qua. No. Anche perché loro ieri hanno dato, l'Europa ha dato ieri il via politico, diciamo, nel vertice dove c'era anche Renzi, al piano di sviluppo, se ne parla a giugno. Diciamoci le cose come stanno. Non ci sono i soldi. Non ci sono. Quindi, i 300 miliardi nessuno li vede. Voi datemi dello scettico, diciamo che io sono realista. In più, nonostante, diciamo, la stampa pro-USA, sfacciatamente direi, dice che sulle sanzioni si va avanti e così via, la realtà è che l'Europa ne è uscita molto divisa dall'idea di continuare le sanzioni contro Mosca. L'Italia contro, per esempio. Speriamo mantenga questa linea. Per adesso linea. Paghiamo. Speriamo mantenga questa linea, perché sarebbe una linea nell'interesse nazionale e non nell'interesse di qualche altro. Ti piace così? Senti, sì. Senti, in orbita. Pezzo fantastico, Sirius, Alan Parsons Project. Lui, sai che stava con i Pink Floyd, è uno dei primi album concepiti totalmente con un sintetizzatore, cioè con un computer. Vabbè, lo sapete che mi piace la musica, basta. Dai. Abenomics. Dai. Ok. La Banca del Giappone ha confermato il piano di stimoli all'economia, quindi si conferma questa linea. Vediamo cosa succede, un momento di grande incertezza. Kuroda, il governatore, e i suoi consiglieri hanno votato, è finito 8-1, quindi un solo contrario. E sarà incrementata la base monetaria del Giappone di 80 trilioni di yen. Parliamo di una robetta da 670 miliardi di dollari l'anno. È difficile perfino immaginarla. Vabbè, carta. Una cifra del genere. Yes, paper, carta, money però anche. E la crescita, secondo le stime, ci sarà. Io penso che non riusciranno a centrare il target dell'inflazione, cioè di tenerla vicino al 2, diciamo, perché i prezzi del petrolio sono talmente bassi e continuano a correre verso il basso che l'effetto deflattivo si vedrà. Kuroda, ho visto adesso una dichiarazione, è molto fiducioso, non lo so. Vabbè, ci sarà qualche sorpresa. Ci vorrà un miracolo. Sì, a proposito dei miracoli, dal 24 dicembre al 6 gennaio, per i seguaci di Padre Pio, nella chiesa di San Salvatore in Lauro sarà esposto il bambinello di Padre Pio, ricevuto in dono dall'attore Carlo Campanini, amico e devoto del santo. Potrà essere visitato appunto dal 24 dicembre al 6 gennaio. Salamino! Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta vanda a letto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. Figurati che faccio il corazziere. Sono le Quirineide. Allora, tutte le festività passeranno all'insegna della vera campagna elettorale. Il premier attuale, cioè Matteo Renzi, sarà pure un abusivo rispetto alle urne, non è stato eletto, ma il successore di Giorgio Napolitano dovrà avere uno scrutinio e perciò ci sarà la conta dei voti. I candidati, tutti autocandidati, sapete la novità? Si sono fatti il loro spot. In anteprima ve lo voglio fare sentire. Allora, dai, per motivi istituzionali hanno lo stesso jingle i due candidati, autocandidati istituzionali. Vediamo se lo riconoscete dallo spot. Ecco! Ecco, sono delle belle cariche, sono niente meno che la terza carica dello Stato, Laura Boldrini, e la seconda carica dello Stato, Pietro Grasso. Poi c'è un'altra candidatura che tra le candidature è ritrosa, ed è la più ritrosa. L'amante ritrosa, Andrew Marvel. Tra le più ritrose, ed è quella, vediamo se lo riconoscete. Ha messo la carica dei 101 ed è Romano Prodi, perché dovrà caricarsi i 101 che già lo scaricarono la scorsa volta. Era la Putin ieri. Poi ancora uno spot, vediamo se lo riconoscete. Atanasio Cavallo Vanesio, mamma mia, le arie che si è il più bello di tutti. Ecco, è il più bello, il più segreto, il più furbacchione, sempre al centro. Il più Vanesio, sempre al centro. Chi è, Mario? Pier Ferdinando Pasini. Giustissimo, bravo. Poi adesso vi voglio far sentire lo spot del candidato più autorevole. Dai, quello perfetto. Insomma, chi è in Italia l'erede del maestro Scannagatti, interpretato dal grande magnifico Totò, il padrone della musica? Chi è? Musaccio. Come Riccardo Musi. Ah, è lui, vabbè, scusate. Dopodiché vi voglio confessare quello che secondo me è il mio personale desiderio, cioè il mio candidato, che ora però dobbiamo, cioè non nel genere maschile, ma... Ebbene sì, io riconosco nella sovranità regale del femminile. Ecco il suo spot, vediamo. Dracula. No, ci fu un manicomio, no. Non è Dracula. Ma come io avevo preparato. Ho sbagliato. Vabbè, mettici uno che sta con Dracula, che vuoi che ti dica? Chi è Dracula? Era Visco, ma poverino. No, quel vero Dracula, professor... ancora più secco, più lungo, più allampanato, con le occhiaie. Fassino! Piero! Adesso invece arriva la mia candidata, ecco. Da, a candidata, non a caso. Allora, presiede alle decisioni della guerra. È una divinità marziale, è una valchiria, l'unica vera candidata seria, con i capelli a caschetto, insomma, atletica. Roberta Pinotti, La difesa. Però, al di là dei candidati, caro Giovanni, oggi lo svediamo finalmente. Il patto del Nazareno ha un segreto. E qual è il l'unica segreto? Cosa vera. L'unica cosa vera, e ce lo ripetiamo con un po' di climax, con Totò che dice: e tu cosa credevi, cacchera? E tu cosa credevi, cacchera? E tu cosa credevi, cacchera? Allora, cosa credevate che fosse il patto del Nazareno? Il segreto è che il candidato di tutti, fosse Pinotti, fosse Fassino, fosse Prodi, fosse la seconda e la terza carica dello Stato, fosse perfino il maestro Scannagatti, il vero candidato di tutti e la cosa più importante di tutti, che cos'è? È la segreteria del Quirinale. E chi ci va a capo della segreteria del Quirinale sarà sempre e solo uno. Andiamo con la musica del corazziere. Mamma, ti ricordi quando ero che ed è Gianni Letta. Grande partito. C'è un altro questo candidato. È il patto del Nazareno. C'è un altro candidato che verrà fuori dal movimento dei grillini. Ha compiuto 50 anni da poco, è alto, è carino e fa il nostro mestiere. Tu lo conosci bene, io pure lo conosco bene. Vedrete che verrà Marco Travaglio. Se verrà votato. Canzoniere, il canzoniere. Assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Sulla piazza Barberini, sulla piazza di Spagna, una moltitudine di vetture passava in corsa attraversando, e dalle due piazze il romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità dei Monti, alla via Sistina giungeva fin nelle stanze del palazzo Zuccari, attenuato. Mix 24. Mario, ancora una bolla. Sì, dai. Spagna. Allora, solo vi aggiorno su Google News, va bene Giovanni? Ma qui non siamo d'accordo. Lo so, meno male. Pensa che noi fossimo sempre d'accordo, meglio. No, insomma, beccati questa allora. I piccoli editori vogliono di nuovo tornare dentro il motore di ricerca che ha chiuso i battenti in Spagna. Tutti gli altri si stanno pentendo amaramente della scelta di essere andati allo scontro titanico con Google senza trovare un accordo. Insomma, hanno già perso il 10-15% di traffico. Stiamo per assistere alla replica del caso tedesco. È una partita che si può giocare solo a livello europeo, individualmente. Non ci sono dubbi. Però prendiamo atto di questo, che vabbè, senza il traffico da Google News la vita è molto dura. I primi tre giorni vedremo. Oggi, come tutti i venerdì, c'è la nostra posta del cuore. Scriveteci mix24@radio24.it. La posta. Eccoci qua, sentite le campanelline, siamo in piena psicosi da regalo e la lettera di Carolina parla anche di questo. Il problema dei regali di Natale è più riceverli che farli. In fondo si può trovare una certa perversa soddisfazione nel comprare a zia Maria l'ennesimo paio di collan troppo corti, nella certezza assoluta che lei ricambierà con l'ennesimo bagno schiuma alle mandorle cui sono allergica. Con lui, però, è un'altra storia. L'anno scorso, già a novembre, lui comincia a fantasticare la sorpresa che mi aspetta. Tra sorrisi maliziosi e sguardi furbi, va avanti così fino alla vigilia. Immaginerete la mia faccia quando ho scartato l'aspirabriciole portatile. Detestava che sbriciolassi sul divano e mi vedeva pronta a rimediare, magari con indosso il completino intimo che mi aveva regalato al compleanno. È finita prima di Capodanno. Adesso c'è un nuovo lui e tremo alla sola idea del suo primo regalo. Il fatto è semplice e forse Minoli mi capirà. Il regalo è il messaggio. Allora l'alternativa non può essere sempre tra l'intimo e l'elettrodomestico. Ma come si fa a trasformare il messaggio in regalo? Pietrangelo, dillo tu a Carolina, come si fa? A trasformare il messaggio in regalo. Sì. Allora, semplice. Intanto la musica, perché non ce la mette? È sparita la voce. Rintontiti. Allora, andiamo alla sostanza delle cose. Secondo me, alla signora che scrive, o signorina, io vorrei dire questo: che una donna sa come fare e ha un solo strumento, che è quello, non dico di restituire il regalo quando è perfino scarso di messaggio, ma di far sì che attraverso una disciplina di educazione il malcapitato impari a fare i regali. Capita, no? Capita che sia distratto, che lo compri così per abitudine, che lo compri senza senso, senza significato. Insomma, non dico che la più grande maledizione sia stata quella del proverbio "a caval donato non si guarda in bocca". Si guarda in bocca. Le donne devono guardare dentro quelle fauci sdentate del cavallo. E quindi educarlo l'uomo, bastonarlo se necessario, restituire il pacchetto amorfo e farselo riportare indietro, smagliante, bello, prezioso, perché fiori e violini necessitano sempre di giusti scintillii. Ha capito, Sara? Ho capito, capito. Un giorno, infatti, un uomo mi ha regalato la bacchetta del direttore d'orchestra come regalo significativo, no? Rispetto a quello che hai detto, Pietrangelo. E quindi l'hai picchiato? No. No. Carolina, comunque, io ti capisco. Perché la verità è che le casalinghe disperate durano 8 stagioni solo a Hollywood. E io, come te, vorrei tanto che il mio lui fosse capace di leggermi nel pensiero, magari di interpretare i miei sguardi bramosi davanti alle vetrine. Ma non è così. E se il tuo lui non lo fa quest'anno, lo farà l'anno prossimo un altro fidanzato. No. Dopo il giornale radio, una puntata realizzata da Rachele Bonanni, raccontiamo una donna straordinaria, Elena Rubinstein, imprenditrice di talento, pioniera dell'industria moderna dei cosmetici. C'è un racconto di bellezza, di imprenditorialità geniale e assolutamente anche questa sua vicinanza nel sociale. Lei ha capito di aver avuto una grande chance nella vita e però non si è nascosta e ha beneficiato lei sola di questa cosa, l'ha condivisa con tante altre persone, con tante altre donne. Era Laura Tonatto, regina dei profumi, intervistata da Marina Miloni. Subito dopo il giornale radio, lo ricordo, la storia di Elena Rubinstein. Stefano da Milano, Stefano per il canzoniere. Sì, Stefano dice che è il piacere di Gabriele D'Annunzio. Bravo, giusto, bravissimo. Stefano a Milano, che fai? Cosa stai facendo? Regali? No, sto facendo fondamentalmente l'esodato, e quindi vi posso seguire. Vabbè, speriamo che finisca. Vabbè, ho come alternativa l'attività di nonno, per cui sto bene, vi faccio tanti auguri. Tanti auguri a te. Stefano, grazie. Bersani, per finire, Bersani. Cadono le stelle, sono cieco, e dove cadono non so, cercherò, proverò, davvero, ad avere sempre su di me il profumo delle mani, riuscire a fare sogni, ridimensionarli.